e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata della settimana, ultima puntata da separata. Sono pure poetessa stamattina, mi è venuta pure la rima. Ci sei? Sì, ci sono. Tu sì. A Milano, io a Roma. Sono arrivata ieri nella capitale, dove proprio ieri, ecco, Deborah. Una bella accoglienza ti hanno riservato. Brava. Direi. Infatti, cosa mi hanno aspettato, sì. Perché si è festeggiata la riapertura della scalinata di Trinità dei Monti. Doveva essere fatto il giorno prima, poi c'era l'allerta meteo. Chiamato che tu saresti arrivata oggi, e quindi hanno aspettato. È questo. Io ti devo dire, non voglio montarmi la testa, ma ho buone ragioni per pensare che mi abbiano aspettato. Quindi sono molto emozionata, ho apprezzato tantissimo. Roma è la città più bella del mondo. Sì, non esageriamo con questi complimenti, perché mi viene... Attenzione, stai lì. Cosa c'è? Gelosona, che il mio cuore è rimasto lì a Milano. Brava. E lunedì torno da te, perché noi siamo la coppia più bella del mondo. Ecco, perché la nostra coppia, al contrario di tante altre, non scoppia. Infatti, allora volevo segnalare ai tecnici che ho un eco alle orecchie. Ecco qua, Paolo Corleoni ha prontamente sistemato la situazione, perché quando ci separiamo, Nicoletta, qua tecnicamente, ovviamente, come il collegamento un filino più complicato. Devo dire che ne fate di tutti i colori quando io vado via. Basta quando il gatto non c'è, vero. I topi ballano, lo dicono tutti. Mi assento un giorno e me ne fate di ogni. Vabbè. Allora, parlavamo di coppie che scoppiano, lanciamo già il tema che approfondiremo nella puntata di lunedì, Nicoletta, perché naturalmente tutti in questi giorni siamo stati un po' guardoni, tra virgolette, quantomeno degli articoli sui giornali, perché siamo stati incuriositi dalle modalità molto drammatiche, traumatiche con cui si è consumata la chiusura del rapporto tra la coppia più bella del mondo, quella che storicamente appunto è stata considerata da anni così, le celebrità per eccellenza, Brad Pitt ed Angelina Jolie. Allora, noi lo toccheremo lunedì, no? Nicoletta, questo argomento. Io farò un approfondimento sul tema della mediazione familiare. C'è questo istituto, ne conosco molti di mediatori e mi hanno detto: Deborah, perché non ne parli? Perché qualche volta queste situazioni si risolvono, o quantomeno la conflittualità si riduce, poi non è detto che la separazione non vada avanti, ma si come dire attenuano queste tensioni con il nostro lavoro, ma molti italiani non lo conoscono, per cui io approfondirò questo. Tu cosa farai? Ma naturalmente parleremo delle ricadute che una coppia in crisi può avere anche e ha nei confronti della crescita dei figli, nell'equilibrio. Sono passaggi molto dolorosi per i bambini, molte coppie cercano di tutelarle, però rimangono quelli che il nostro Alberto Pellai chiama tatuaggi emotivi, e ci sarà appunto Alberto Pellai con noi, e quindi invitiamo i nostri ascoltatori che magari stanno attraversando questo periodo, hanno vissuto in prima persona questa situazione, da genitori o da figli, di iniziare a mandarci le loro storie, da cui ci ispireremo e magari partiremo per fare una riflessione, certo, che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori. Però, Deborah, non tutte le coppie scoppiano. No, per fortuna. C'è una coppia che è perfetta per cuore denari. E chi sono? La signora e il signor Zuckerberg, che si sono impegnati, i signori Facebook, certo, a investire 3 miliardi di dollari. Ti brillano un po' gli occhietti? Esatto. Ecco, del loro fondo se di vogliono benefici... li invito a investire informati, così ci raccontano cosa ne fanno di questo. Sarebbe denaro. Magnifico. Ma te lo dico già che cosa ne vogliono fare. Li hanno prelevati dal loro fondo di beneficenza perché desiderano provare a curare nel prossimo decennio e prevenire tutte le malattie, tutte. Proprio una coppia di cuore denari, quindi dovremmo sforzarci, impegnarci ad invitarli. Bene. Senti Deborah, dimmi. Allora, quando due persone sono lontane, cosa si dicono? Dai, ci troviamo a metà strada? Esatto, dove andiamo? Dunque, a metà strada per incontrare i signori Zuckerberg dovremmo andare, non lo so, loro staranno probabilmente in California, a New York. Allora no, è meglio che ci incontriamo io e te, dai. Comunque, insomma, tanti mecenati anche in Italia, che ogni giorno nel silenzio fanno tanto, è un bel mondo da scoprire anche qua. Tutte promesse che lanciamo per i nostri ascoltatori di argomenti che affronteremo in seguito. Intanto che dici? La nostra rassegna stampa la cominciamo? Sì, dove andiamo? Prima di tutto ti porto qua vicino, in borsa, Palazzo Mezzanotte, quindi una zona che conosci anche abbastanza bene qui a Milano. Per cominciare con le notizie finanziarie, questa seduta che è negativa per l'Europa, però ieri è stata molto buona la giornata finanziaria, rialzi a cifre consistenti, più di 2 punti per tutti gli indici continentali che hanno beneficiato delle recenti iniziative delle banche centrali. Oggi si prende un po' di fiato, meno 0,6% su Parigi, meno 0,20% a Francoforte, Londra meno 0,25%, Milano perde un po' di più, tanto per cambiare, perché sono le banche che perdono terreno e quindi, siccome le banche pesano molto sull'indice, tutto l'indice perde più degli altri europei, meno 0,95% sul FTSE MIB. I titoli peggiori stamattina abbiamo la Popolare dell'Emilia Romagna, Azimut, Monte dei Paschi, Moncler che perdono 2,5 punti, peraltro su Moncler c'è anche il collocamento del 6% del capitale da parte di un fondo che ne deteneva appunto una quota. Poi Mediobanca -2, Tenaris -1,8, Banco Popolare -1,8, ma diamo conto anche dei titoli positivi, sono pochi: Salvatore Ferragamo +1,23, Mediaset +0,8, Ferrari +0,62%. L'euro è a 1,12 circa sul dollaro e stamattina in Asia abbiamo avuto un quadro leggermente negativo, mentre ieri sera Wall Street ha toccato un nuovo record, il secondo, per la seconda seduta appunto di fila. Allora, come anticipato da Nicoletta, visto che oggi viaggiamo un po', andiamo a Torino. Ieri è partito il 20° Salone del Gusto, organizzato da Slow Food, Regione Piemonte, Città di Torino. È il più importante evento internazionale dedicato al cibo, che trasforma proprio il capoluogo piemontese nella capitale della gastronomia. Allora, proprio al Salone del Gusto, questa mattina, tra pochi minuti in realtà, viene presentata in una conferenza stampa un'iniziativa molto interessante, quantomeno noi l'abbiamo giudicata così, poi lasciamo a voi il commento e anche a voi il giudizio. C'è un'azienda molto nota nel settore degli articoli per la conservazione degli alimenti che oggi presenta la Safe Bag, perché serve proprio per portarsi a casa il cibo dal ristorante in virtù della nuova normativa contro lo spreco alimentare. Siccome per portarsi a casa il cibo dal ristorante servono contenitori giusti, no Nicoletta, tu me lo insegni, certo, anche per l'igiene, per tanti aspetti, subito l'industria, dopo questa legge, giustamente si è messa in moto per mettere sul mercato dei contenitori adeguati. Noi ne parliamo questa mattina perché questa iniziativa, oltre all'azienda, vede protagonista anche il Banco Alimentare. Noi salutiamo il direttore generale Marco Lucchini, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno direttore. Allora, intanto ci presenta la vostra iniziativa di questa mattina e poi faremo anche un punto velocemente della legge sullo spreco alimentare, entrata in vigore ufficialmente il 14 settembre, quindi fresca fresca di battesimo. Esatto, fresca fresca, cerchiamo di mantenerla freschissima anche nel tempo, non facciamola scadere. Ecco, esatto, no, se no non possiamo portarla a casa nella safe bag. Perfetto. Il progetto come realizzazione, appunto, oggi lo presenteremo, ma è frutto di una collaborazione che vede dal 2011 la possibilità di recuperare, attraverso la donazione di termobox e contenitori in alluminio, realizzando così il progetto Cookie Save the Food, ci ha permesso di andare nelle mense scolastiche, nelle mense aziendali e arrivare a recuperare circa 1.100.000 porzioni di piatti pronti. E da qui, dalle mense, siamo passati a pensare anche al consumatore e quindi a chi va presso i ristoranti, speriamo in coppia, non single, che possano appunto avere uno strumento semplice, anche grazioso, perché è stato pensato anche dal designer del Politecnico di Torino, che piacevolmente uno, quando non ha terminato la porzione del proprio piatto, possa volentieri chiedere questa piccola vaschetta di alluminio e che appunto noi l'abbiamo chiamata Save Bag, proprio perché è un contenitore che salva questo cibo, e potersela portare a casa e continuare a gustarsi quel piatto che sicuramente era ottimo anche in un giorno dopo, certo, mettendolo in frigo, eccetera. Un gesto semplice, ma siamo convinti che tanti piccoli atti di questo genere possano, sommandosi tutti insieme, ridurre tantissimo le tonnellate di eccedenze che ancora vengono buttate. Esatto, peraltro questo è un messaggio anche con l'iniziativa di questa mattina un po' per i ristoratori, no? Che possono andare sul sito, io lo dico, è lungo, magari lo mettiamo su Facebook, è www.cookiesavethefood.it/savebag, e qui ci sarà l'elenco completo dei ristoranti che hanno aderito al progetto, ma si darà, esatto, anche la possibilità ad altri ristoratori di iscriversi e ricevere gratuitamente il primo kit per vedere come è fatto e quindi valutare se tenerne appunto in ristorante e metterlo a disposizione degli avventori dei clienti. Un ultimo minuto di tempo, Lucchini, per chiederle, molti vedono ancora questa richiesta al ristorante di portarsi via ciò che non si è terminato di consumare come un atteggiamento poco dignitoso, un po' come chiedere degli avanzi appunto da portare a casa. Ci dà una dritta su come cambiare la mentalità delle persone che hanno ancora questa resistenza culturale? Ma io credo che si tratti proprio solo di cominciare, e questo appunto di oggi è un inizio importante, perché a volte diventa di moda, ma a volte si capisce che era proprio stupido non farlo. Io vedo che in Italia, ad esempio in mente al sud, è quasi un onore alla fine di certi matrimoni, di certi eventi, portare a casa qualcosa, un segno proprio di gratitudine verso chi ha organizzato. Credo che sia un po' di freddezza più della parte nord dell'Italia, che vedremo, che sono convinto che, come ha cambiato altre cose, diventerà un qualcosa di cult farlo. Certo. Quindi il problema importante è dare degli strumenti simpatici, non imporlo, ma farlo diventare qualcosa veramente di gradevole. Guardi, sono sicura che arriveremo anche dal portarcelo a casa il contenitore, per poi riportare via quello che non mangiamo al ristorante. Vedrà che piano piano ce la facciamo a cambiare la mentalità dei più resistenti. Grazie a Marco Lucchini. Esatto. La reinvite... Sì, no, purtroppo devo andare in pausa. Esatto, bravo. Devo andare in pausa. Comunque, Lucchini, grazie, in bocca al lupo per la vostra iniziativa di questa mattina. Torneremo presto a parlare di nuovo della legge contro lo spreco alimentare, per vedere anche un po' se avete cambiato le vostre abitudini. Nicoletta, do la linea al traffico, poi ritorno a te a Roma. Bene? Grazie. A tra poco. Cuore e denari. Restiamo a Torino, sempre in occasione del Salone del Gusto e per la rassegna di Cuore. Io vi invito ad andare a vedere una mostra che è organizzata da COP, si intitola La Buona Terra, 40 foto proprio scattate in 4 regioni italiane, Calabria, Sicilia, Puglia, Lombardia, che raccontano la vita nei campi, dove si attuano le regole della trasparenza, dell'eticità, del rispetto di chi lavora e di chi consuma. Sono italiani, polacchi, indiani, maliani, non contano i colori o le lingue, gli abiti diversi, sono donne e uomini che lavorano, in alcuni casi da anni, nei campi, ma lo fanno in condizioni di libertà e di rispetto delle regole. Perché vi segnalo questa mostra? Perché gli scatti che raccontano il ciclo estivo della raccolta di frutta e verdura ci permettono di parlare di alimentazione, di cibo, di prodotti con un taglio diverso. Non ci fermiamo solo alla qualità e al punto di vista organolettico e alle proprietà nutritive dei prodotti, ma vogliamo, e questa mostra lo fa, mettere l'accento sull'aspetto legale. A proposito di legalità, si parlerà anche del pomodoro pachino e del suo viaggio fino alle nostre tavole. Diventa proprio un pomodoro, un pomodorino legale. Ma noi siamo a Cuore Denari e questo tipo di pomodoro che ha catturato la nostra attenzione, ne vogliamo parlare anche dal punto di vista delle proprietà nutritive. In linea con noi non poteva mancare il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno, bellissimo risentirci oggi, è una giornata che qui è di sole e il pomodoro lo esprime, mi piace parlarne. Ecco, è veramente il frutto del sole. La nostra attenzione è stata catturata dal pomodoro di Pachino, che viene coltivato proprio a Pachino in provincia di Siracusa. È un pomodoro rosso, gustoso e ottimo anche cotto, e quando dico cotto mi si attiva subito, no? Mi sento alla voce del dottor Speciani che mi dice che proprio quando il pomodoro si cuoce, nel pomodoro cotto c'è un antiossidante molto prezioso per la nostra salute, che è il licopene. Dottor Speciani, ho imparato. Beh, hai imparato benissimo, brava. E comunque non solo nel pomodoro cotto, ma anche nel pomodoro molto maturo. C'è proprio l'effetto della cottura, del sole, della presenza della luce e poi ovviamente anche del calore. Questo fa sì che, tutto sommato, quando mangiamo una pizza, talvolta possiamo anche gratificarci col fatto che ci possa anche fare bene e non solo gonfiarci un po'. E quindi è un buon segnale. Licopene è una cosa potentissima, perché si è scoperto da poco, in realtà è un carotenoide, è una delle sostanze che in realtà caratterizza il colore rosso del pomodoro. Infatti un po' la troviamo anche, non so, nell'albicocca, nel cocomero, nelle carote, per dire. Però il pomodoro sottoposto a lunga maturazione, che ha visto molto sole, ce n'è davvero una quantità notevole. da crudo si assorbe meno, quando si mangia sulla pasta, quando si cuoce, quando si fa la pomarola, ne viene fuori di più e lo possiamo assorbire molto meglio. Questo è un dato assolutamente potente e utile. Quindi, tra l'altro, questo è proprio il momento per preparare la conserva, la pomarola, dottor Speciani, per avere poi tutto il sapore del pomodoro anche in inverno, quando ci sono quelle giornate grigie, buie, e si porta un po' a tavola un po' il sapore dell'estate, che tira un po' sul murale, è corretto? Ma non solo, che bello, poi io devo dire, a parte che mia moglie mi dice da sempre perché me lo mangerei cucchiaiate il sugo fatto, senza nulla, cioè solo di cucchiaiate di pomodoro. Sì, perché per quanto uno ne faccia non è mai abbastanza, soprattutto se si hanno dei mariti che lo mangiano cucchiaiate, quindi mi associo. È Deborah. È un'esperienza condivisa. Esatto. Conosco queste abitudini, me le hanno raccontate. Sì, ecco. E poi devo dire, c'è un tema, tra l'altro io adesso qui sembra che stiamo facendo un elogissimo di Pachino, che è vero, perché ma è buono. Del pomodoro in generale. Ma del pomodoro in generale, ma io no, a parte Pachino, Pachino poi la zona tutto l'intorno, che vuol dire Noto, vuol dire Siracusa, vuol dire Ispica, cioè sono le zone che se uno guarda la geografia vede che è un triangolo di Sicilia che sta immettendosi nel Mediterraneo di fronte al sole che nasce, cioè l'immagine visiva, poi loro dicono che è una delle zone, non credo che sia così vero, che sia il comune più assolato d'Italia, sono convinto che lì in zona ce ne siano altre, però vuol dire che c'è un'esposizione solare di quelle per cui l'energia del sole che entra dentro nella terra, nelle piante, negli animali e diventa poi il tuo benessere. E posso dire anche una cosa? Perché a volte le persone dicono ah, pomodoro però contiene nickel, quando c'è un rapporto di qualità, cioè un prodotto è nato bene, questo vale per il cacao, vale per il pomodoro, vale per gli spinaci, cioè i prodotti che oggi molta gente vive con un po' di preoccupazione, quando c'è una coltivazione corretta si sta documentando negli ultimissimi anni, direi negli ultimi 2 anni, proprio un cambio che non è tanto il contenuto della sostanza in sé del nickel, ma il rapporto qualitativo, cioè un prodotto coltivato bene, e secondo me da quello che diceva prima Nicoletta sulla filiera legale c'è anche del cuore dentro questo tipo di dimensione, in realtà ha meno reattività, ha meno problemi, quindi questo è un dato positivo che si aggiunge. Licopene io ne mangerei quintali e quindi non posso che dire. C'è un'ascoltatrice Nicoletta e dottor Speciani che ci racconta a proposito di Pachino su WhatsApp: li sto mettendo nei vasi per l'inverno con olio, aglio e prezzemolo. Ne mandi su qualcuno, sì, due vasetti. Almeno... Tre. Non so, 138 vasetti, così giusto per assaggiarli, non mi piacerebbero. Intanto che la nostra amica li conserva, noi sappiamo, il pomodoro maturo, un po' tiepidino dal sole, sul pane, con un filino d'olio, ma è stata la nostra merenda classica, dottor Speciani. Assolutamente, a volte con un filino di sale aggiunto, che era una triste abitudine. In effetti volte... a me lo aggiungevano, ma non ho voluto dire perché se no lei mi avrebbe subito detto, però il sale, pizzichino di sale al posto del classico pane marmellata o pane burro e zucchero, perché si usava anche questa merenda molto energetica, squisita, sì, che sì. Non ce l'avete più fatta mangiare. Esatto. Meno male. Dottor Speciani, noi questa è una merenda che potremmo riproporre ai nostri bambini? Dunque, diciamo di sì, tra l'altro poi il tema forte è che intanto il pomodoro è una delle sostanze più ricche di potassio, ha poco sale dentro, quindi può bene, come dire, omogenarsi, non apporta sale in più e quindi viene molto bene ed ha un'azione energetica notevole proprio per una somma di motivi, poi in più sulla vista, cioè non contiene mica solo licopene, c'è la zeaxantina, ci sono cose utili, ma la merenda fatta in questo modo, con del pane integrale, quindi significa aumentare un po' il tasso di proteine, perché se uno mangia solo pane bianco con sopra il pomodoro in realtà mangia quasi solo carboidrati, e che non va bene, mentre un pane integrale, quindi con dentro delle proteine naturali, della fibra e il pomodoro sopra, bello, caldo di maturazione, mi ha fatto venire un sogno mentre me l'ha detto, più che perfetto. Ecco, e noi parleremo di pane integrale, parleremo di Panino, che sta facendo discutere in questi giorni, Mensa verso Panino, una battaglia che è partita da Torino, che si sta diffondendo a macchia d'olio. Vogliamo rispondere alle tante richieste dei nostri ascoltatori che ci hanno fatto una domanda molto semplice, al di là delle polemiche. Ma a un bambino basta un panino, e come deve essere nel caso, per affrontare la giornata? Un panino a pranzo è sufficiente? Dottor Speciani, lei vada a mangiarsi un panino e ci troviamo qua insieme alle 11 16.30. Grazie. Ottimo, a tra poco. Anche due noci, adesso andiamo a sentire il nostro GR. Domenica, ore 14.30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Ebbene sì, dove eravamo rimasti con gli indennizi ai risparmiatori coinvolti nei salvataggi di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti? Eravamo rimasti ad una puntata che abbiamo fatto lo scorso luglio, quando era partita formalmente la procedura appunto per indennizzare queste persone. I primi risarcimenti stanno già arrivando, i primi indennizzi sono risarcimenti che ammontano all'80% dei bond, delle obbligazioni subordinate che sono state azzerate, lo ricorderete bene, dopo la messa in risoluzione delle quattro banche lo scorso novembre. Ad erogare i rimborsi è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che nel dettaglio ha liquidato, nei giorni scorsi ne abbiamo dato anche notizie, le prime 20 pratiche per la maggior parte di piccolissimi risparmiatori di Banca Etruria, il cui investimento medio iniziale non era superiore ai 20.000 euro. Così come appunto ci aveva promesso, noi questa mattina abbiamo pensato di organizzare una trasmissione per fare il punto di questa delicata situazione con il presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che salutiamo ed è già collegato telefonicamente con noi, il professor avvocato Salvatore Maccarone, che ha la responsabilità del fondo dal 2014. Maccarone, buongiorno e benvenuto, professore. Grazie. Buongiorno a voi e ai miei ascoltatori, grazie. Allora, naturalmente ci faremo fare, come vi dicevo, un punto della situazione per chi soprattutto a beneficio di chi a chi fosse sfuggita questa notizia ed è direttamente interessato a questo indennizzo, perché purtroppo abbiamo a che fare anche con queste situazioni, e poi cercheremo anche di fare un punto sulle cose ancora da chiarire in merito ai requisiti che è necessario rispettare per avere diritto all'indennizzo. Se ci fosse qualcuno all'ascolto che ancora non ha capito bene la procedura, peraltro tutte le notizie sono molto ben descritte sul sito del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, www.fidt.it, per cui lo ricordiamo già fin da subito, in modo tale che possiate andare subito a controllare. Non solo ci sono le informazioni, c'è anche proprio il modulo da compilare per fare la richiesta al fondo di questo indennizzo. Allora, 800 24 00 24 invece è il numero verde a vostra disposizione se volete avere le informazioni da noi. Professor Maccarone, qualche giorno fa le pratiche liquidate, noi lo abbiamo raccontato a cuore denari, erano 20, ce ne erano pronte, raccontavano i giornali, almeno altre 180. Lei stamattina qualche aggiornamento per noi? Sì, naturalmente le richieste arrivano giornalmente, così come le liquidazioni sono fatte giornalmente. Oggi, fino ad oggi, stanno arrivando più che altro richieste individuali. Noi aspettiamo il grosso delle richieste attraverso le associazioni dei consumatori, con le quali abbiamo sviluppato rapporti di collaborazione soddisfacenti nel periodo che ha preceduto appunto l'avvio delle liquidazioni. Questo faciliterà anche l'esame da parte del fondo, perché le associazioni faranno una valutazione preventiva e quindi se vi fossero documenti mancanti oppure qualche altra manchevolezza della richiesta provvederebbero a farla integrare prima dell'inoltro. Ad ogni modo, oggi noi abbiamo ricevuto circa 1400 richieste che sono arrivate prevalentemente in forma cartacea con una raccomandata oppure in forma elettronica con posta elettronica certificata oppure attraverso il sito web. Sono tutte queste richieste vengono naturalmente analizzate. Noi abbiamo sviluppato una procedura informatica apposita per la verifica, calcoli che noi non siamo abbiamo dovuto creare un'organizzazione apposita staff, per questa attività che è diversa da quella che noi istituzionalmente facciamo, insomma, però l'abbiamo fatto e le liquidazioni stanno procedendo, il ritmo crescerà nei giorni prossimi. Noi immaginiamo che tra quello che è stato fatto questa settimana e quello che si farà nella settimana ventura, perché ci sono già posizioni che sono state viste e quindi sono pronte per essere liquidate, e alcune centinaia di posizioni lo saranno. Benissimo. Quindi il ritmo è costante, ogni giorno si procede in questo modo. Anche perché da quando è partita la procedura ci sono 6 mesi di tempo per fare richiesta e per ottenere l'indennizzo, per cui poi, certo, per questo tutto da velocizzare. Sì, la quantità maggiore che noi ci aspettiamo, come dicevo prima, ancora non è arrivata, arriverà perché appunto il termine, come lei indicava, è in corso, e quindi è bene che chi ha desiderio di utilizzare questo meccanismo del rimborso automatico si appresti a farlo. Certamente. Ecco. E lei riconosceva poco fa il ruolo che stanno svolgendo le associazioni dei consumatori, con cui avete attivamente elaborato, soprattutto per invitare i risparmiatori che hanno diritto all'indennizzo a presentarsi, e soprattutto per aiutarvi a fare una prima, come dire, scrematura anche delle pratiche, in modo tale da non far perdere tempo anche a quelle persone che all'indennizzo automatico non hanno diritto. Allora, per questo io, professor Maccarone, ho anche coinvolto stamattina con lei Donata Monti, responsabile delle relazioni con le associazioni dei consumatori per conto delle 4 good bank, le banche praticamente la parte risanata, delle famose 4 banche risolte. Dottoressa Monti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Ecco, allora, visto che un po' ce l'ho anticipato, Maccarone, esattamente voi che cosa state facendo in questa fase proprio per aiutare anche il fondo a liquidare velocemente queste pratiche? Sì, noi appunto attraverso questo accordo che abbiamo fatto con 14 associazioni abbiamo messo in piedi uno strumento che faciliti appunto la domanda e poi l'invio della documentazione utile a fare istanza al fondo. Quindi diciamo abbiamo strutturato questo processo che sta funzionando, infatti le associazioni cominceranno ora ad inviare, perché stanno facendo un lavoro, come dicevate voi, insomma, anche di selezione, definire chi ha diritto, chi non ha diritto, eccetera, soprattutto verificare la documentazione che sia quella utile. Stanno raccomandando, e va raccomandato, approfitto anche di questa occasione, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi chi fa l'autocertificazione. Di non farla, ecco, di farla correttamente, non farla mendace, perché poi... Esatto, perché è una dichiarazione che se è mendace ha un risvolto penale, e credo che appunto il fondo, così come verifica tutta la documentazione anche proveniente dalle banche, sicuramente verificherà anche queste autocertificazioni, certo, perché diciamo è una parte del suo lavoro. Quindi le associazioni stanno facendo tutto questo grosso lavoro, poi abbiamo organizzato con loro anche le modalità e la quantità, perché se si intasano le banche poi alla fine si riesce con fatica ad inviare per tempo poi la documentazione anche al fondo. Quindi insomma c'è il lavoro previsto da quel famoso accordo che sta funzionando. Bene. E ci auguriamo appunto che questo sia utile poi anche al fondo per accelerare i tempi, no, di verifica e quindi di decisione. Allora andiamo adesso a ricordare quali sono i parametri per avere diritto, lo ribadisco, all'indennizzo diretto, questo che ammonta all'80% appunto dell'investimento inizialmente effettuato. Ricordiamo che non è un diritto che spetta a tutti, non tutti possono rivalersi appunto nei confronti del fondo per ottenere quanto investito inizialmente. C'è anche chi punta ad ottenere il rimborso pieno e quindi, anziché la strada dell'indennizzo automatico, dovrà rivolgersi tra un po', si spera presto, all'autorità anticorruzione, però la procedura anche in questo caso non è ancora operativa, non è stato emanato il provvedimento attuativo di questa strada. Professor Maccarone, ricordiamo invece i requisiti per chi ha il diritto di rivolgersi al fondo e ottenere l'80% di indennizzo rispetto all'investimento inizialmente effettuato. I requisiti sono molto precisi. Sì, beh, in parte l'ha ricordato la dottoressa Monti un momento fa, c'è un requisito che riguarda il reddito imponibile che non deve essere superiore a quello che appunto la legge ha indicato, sono 35.000 euro, e oppure alternativamente un patrimonio immobiliare non superiore a 100.000 euro. Io volevo dire in relazione a questo che ci ha detto la dottoressa Monti, che l'intermediazione di queste associazioni è preziosa, perché noi un paio di circa 200 domande che abbiamo ricevuto le abbiamo dovute interrompere nella lavorazione, non respingere, ma richiedere integrazioni documentali perché vi erano carenze nei documenti appunto che vanno allegati alla richiesta. Quindi non sono tante cose, sono indicate in modo specifico nel sito del fondo, ma sono necessarie perché noi abbiamo appunto la necessità di fare controlli e quindi di verificare che i requisiti di legge siano soddisfatti. Quindi primo il reddito, dicevamo, poi il patrimonio immobiliare che deve essere inferiore alternativamente o ecco, l'uno o l'altro alternativamente. Ma c'è anche l'elemento importante, professor Maccarone, della data d'acquisto di queste obbligazioni, perché anche questo è un discrimine importante. Ci ricorda anche questo terzo requisito? Devono essere stati acquistati prima del 12 giugno del 2014, quando questa vicenda, diciamo così, si è avviata, e devono essere detenuti in portafoglio alla data in cui le banche sono andate in liquidazione, quindi a novembre del 2015. L'esistenza di questi requisiti si prova attraverso i documenti che sono indicati nel sito del fondo, che sono l'ordine di acquisto, poi l'estratto conto titoli, ci sono una serie di documenti che sono chiaramente indicati, e quando appunto la domanda arriva corredata di questi documenti, di queste dichiarazioni, qui mi è sembrato opportuno l'invito della dottoressa Monti alla veridicità delle dichiarazioni, perché naturalmente noi vogliamo assolvere correttamente il compito che ci è stato dato, vogliamo farlo bene, credo che lo stiamo facendo bene, ma sempre nell'ambito di quelli che sono i requisiti che la legge ha indicato. Certamente. Allora, i primi risparmiatori indennizzati sono stati risparmiatori che detenevano obbligazioni di Banca Etruria. Letizia Giorgianni è presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanche, in particolar modo rappresenta detentori di queste obbligazioni. Letizia, buongiorno e ben ritrovata a Cuore Denari, l'abbiamo chiamata buongiorno tante volte in queste trasmissioni. Allora, quanti componenti, quanti come soci, tra virgolette, loro malgrado, della vostra associazione sono stati appunto indennizzati? Cosa sta succedendo tra di voi in questi giorni? Allora, tra di noi sta succedendo praticamente ancora niente, perché siamo in attesa. E nessuno che fa parte ancora della mia associazione ha avuto la fortuna di essere tra i primi. Questo avete già fatto tutti la domanda regolarmente? Vi siete anche aiutati in questo? Vede, qua c'è l'altro grande problema, che noi ormai da tempo stiamo avanzando, il fatto che ancora non siano pronti i decreti che fissano gli arbitrati, perché lei consideri che una persona nell'indecisione se poter riottenere il 100% del capitale investito attende che siano noti anche questi parametri, quindi molti hanno aspettato. Ah, tergiversano per capire se conviene di più andare a fare richiesta del 100% eventualmente con l'autorità anticorruzione? Esatto, perché come poi il professor Maccarone potrà confermare, se verranno inoltrate la sola richiesta di rimborso al FTD preclude la possibilità di poter partecipare all'arbitrato. Noi più volte abbiamo chiesto di poter procrastinare la data di richiesta al rimborso forfettario, perché mi sembrerebbe una minima forma di giustizia in questa storia che di giusto non ha proprio niente, al di là di questa macchina perfetta che ho appena sentito, dei rimborsi che stanno scorrendo. Io la vedo in maniera proprio diversa. Per me questi paletti, il fatto che la maggior parte anche degli obbligazionisti siano esclusi, faccio per dire, per ad esempio la data di acquisto di questi dossier, oppure peggio che peggio, per il fatto, probabilmente questa è l'interpretazione del CTD, il fatto che l'operazione sia stata effettuata dal bancario non in contropartita diretta, beh, francamente insomma questi sono dei parametri. Che significa aver acquistato l'obbligazione in un'altra banca diversa da queste quattro risolte, no? Oppure no, sul anche uno può aver acquistato anche nella banca stessa, però magari l'acquisto è stato fatto dal bancario di turno nel mercato secondario. Quindi sempre stiamo parlando sempre di clienti retail. Sì. Benissimo, sì, sono messaggi che noi possiamo rivolgere al fondo, ma il fondo tempera alla legge, è chiaro che certo, qua è la legge che secondo il vostro punto di vista è stata concepita in maniera non corretta per voi. Professor Maccarone, se vuole rispondere però a queste obiezioni noi raccogliamo volentieri il suo commento. Questo naturalmente è un tema che la dottoressa Giorgiani ha prospettato adesso, che insomma è noto, sul quale noi naturalmente abbiamo riflettuto approfonditamente. Come dicevo prima, in questa attività noi abbiamo il dovere ma anche il diritto di seguire con attenzione quello che il legislatore ha indicato. Io potrei anche condividere alcune delle cose che la dottoressa il principio può essere condivisibile, poi evidenziato, ma insomma noi siamo fedeli, vorremmo essere fedeli interpreti della legge. Posso dire questo, che siccome è stato appunto evocato il nome della banca popolare dell'Uruguay e del Lazio, la maggior parte delle richieste sono pervenute da questa banca e sono state anche le prime che sono state liquidate, come mai? Ma non perché si è scelto di farlo, ma semplicemente perché erano più numerose e sono state le prime. Poi l'ordine di priorità è dato dalla procedura informatica, quindi non c'è una selezione discrezionale dell'una o dell'altra, e quindi anche oggi a stock ricevuto ancora oggi sono in numero largamente prevalente rispetto alle altre, e poi comunque arriveranno. Noi siamo ancora in corso di termine, anche se naturalmente una buona parte del termine si è già consumato. Noi tutto quello che arriverà pagheremo, faremo questi controlli oggettivi, doverosi, li faremo nel modo più rapido possibile in maniera da soddisfare queste aspettative, e poi attenderemo anche noi quello che il legislatore riterrà di fare, quando lo farà. Se magari vi chiederà anche di nuovo un'ulteriore collaborazione rispetto alle procedure appunto di indennizzo che verranno gestite dall'autorità anticorruzione. È verosimile? Lei dice che potrà esserci un coinvolgimento ulteriore anche vostro, anche in quella procedura? Ma presumo di sì, nel senso che i risarcimenti poi che verranno dall'esperimento del procedimento arbitrale saranno poi rigirati a noi per la liquidazione. Chiarissimo. Insomma, questi sono due meccanismi. Uno, qui c'è evidentemente vi è una scelta che può essere anche non semplice fare, cioè che la liquidazione di questo indennizzo automatico avviene sulla base della verifica di soli presupposti formali, senza nessuna indagine sul perché, sull'adeguatezza della vendita, eccetera. Certo. E questo porta ad un indennizzo dell'80%. Se poi si ritenesse appunto che vi sono state situazioni diverse da parte ritenesse il risparmiatore, quando il procedimento arbitrale sarà attivato se ne potrà giovare, certo. con l'aspettativa teorica di ricevere l'intero. Ecco, mi sento però un po' di condividere come dire tra virgolette la malafede di Letizia Giorgiani, che diceva in sostanza non vorrei che qua insomma il governo aspettasse che tutti inoltrano la domanda e chiedono l'indennizzo all'80% attraverso la procedura già in corso, per poi non dare la possibilità di esperire la strada ulteriore per poter eventualmente chiedere l'indennizzo al 100%, e visto che queste persone appunto saranno precluse, non vorrei che questo provvedimento attuativo arrivasse quando si sono chiusi i 6 mesi per ottenere l'80%. Adesso spero di essere stata chiara. Detto questo, questa è la mala lingua della Rosciani. Donata Monti, l'ultimo minuto lo dedico a lei. Ci sono delle precisazioni da fare per conto della vostra organizzazione di relazione tra associazioni dei consumatori e le quattro Good Bank, le quattro nuove banche guidate da Roberto Nicastro. Ma diciamo, insomma, noi stiamo lavorando, poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi può vederla bene, mezzo pieno, mezzo vuoto, il lavoro c'è stato. e secondo me tutti i lavori che vanno nella direzione dell'obiettivo di migliorare poi la vita delle persone, in questo caso di fare in modo che l'indennizzo avvenga nei tempi adeguati, come dire, può essere solo apprezzato. Dall'altra parte un'informazione forse per quanto riguarda appunto questa vendita attraverso intermediazione nel mercato secondario, sì. Per quanto riguarda Banca Etruria non esistono situazioni che corrispondano alle date di acquisto e di mantenimento delle obbligazioni che possano ricadere sotto la voce intermediazione o mercato secondario che sia. Che altre banche abbiano venduto obbligazioni di Banca Etruria eccetera, io dico chi le ha comprate da altri intermediari dovrà in qualche modo trovare una soluzione con gli altri intermediari, dimostrare questo, che lo ha fatto in assoluta diciamo che questa questione del mercato secondario era già uscita a maggio, infatti c'erano già state delle proteste dell'associazione dei consumatori. E comunque voglio dire, non è la novità e non è il fondo interbancario, insomma questa era una precisazione per dire che comunque anche questo è collegato al decreto e alla legge. Dall'altra parte ho visto proprio stamattina che per quanto riguarda l'arbitrato diciamo ci saranno probabilmente forme di calcolo molto simili a quello che si stanno facendo nel fondo, perché sempre, io non ho il testo, però da quello che dicono i giornali che evidentemente ce l'hanno, saranno detratti ovviamente giustamente insomma gli interessi, quindi una volta che verrà stabilito che deve essere indennizzato comunque verrà fatto un calcolo, da quello che capisco, salvo verifica del testo, molto simile a quello che sta facendo il fondo. La complessità dell'arbitrato è quella appunto che sicuramente bisognerà che la gente sia sostenuta, dovrà essere sostenuta da terzi, perché se è così, come si dice dalla stampa oggi, la domanda, insomma, quindi la richiesta del lodo e dell'intervento dell'arbitrato va fatta in forma scritta, documentale. Devo chiudere, Monti, sì, e adesso? Come? Devo chiudere? Sì. Messaggio finale? Sì. No, niente, andiamo avanti, nel senso che laddove c'è qualcosa di positivo che effettivamente può dare soddisfazione alle persone, vediamo di non distruggerlo, insomma noi stiamo andando avanti, certo. Le associazioni stanno con noi, stanno andando avanti, e noi ci torneremo presto su questo argomento, esatto, e ci si velocizza appunto per accontentare tutti quanto più possibile. Questo è il nostro obiettivo, noi dobbiamo dare la documentazione. Grazie, devo chiudere, c'è la borsa, poi devo dare la linea a Roma a Nicoletta, grazie a Salvatore Maccarona, Letizia Giorgiani e Donata Monti, a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto andare. Eccoci tornati insieme in questa seconda parte del programma. Andiamo a scuola e a spingerci a farlo la polemica Panino verso Mensa che si sta diffondendo a macchia d'olio. Di settimana scorsa la decisione del Tribunale di Torino, che rigettando il reclamo del MIUR ha riconosciuto alle famiglie il diritto di mandare i bambini a scuola portandosi il panino, il pasto da casa. Le tensioni però, lo avete letto anche sui giornali, non si sono sciolte. Ad esempio a Milano alcuni bambini sono rimasti fuori dalla mensa. Udi, nel caso proprio di ieri, un bambinetto è rimasto a digiuno perché non poteva mangiare a scuola il cibo portato da casa insieme ai suoi compagni. Insomma, il problema che sembra non riesca a trovare una soluzione immediata, ma sappiamo bene, ne abbiamo parlato in diverse occasioni a Cuore Denari, un problema importante che ha risvolti educativi e sociali, perché la mensa è un'occasione di socializzazione e di crescita, tra l'altro anche la mensa ha un costo, questo è un tema perfetto per Cuore Denari, quindi ci torneremo prossimamente, ma oggi non ci occuperemo di caro mensa né dello scontro tra genitori e scuola, che speriamo si risolva presto, considerando che quando ci sono di mezzo i bambini, non ci sono né vincitori né vinti, dobbiamo usare il buon senso, venirci incontro, ma oggi cercheremo di dare una risposta a tutti quei genitori che ci hanno scritto per capire se un panino può garantire a un bambino tutto quello di cui ha bisogno per affrontare la giornata, o in alternativa come strutturare la giornata alimentare del bambino. Abbiamo dato il compito al nostro esperto, il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica, che è in linea con noi. Dottor Speciani. Ci siamo. Qui. Allora, entriamo subito nel tema. Il panino può essere un'alternativa al pranzo per un bambino, e nel caso quali caratteristiche deve avere, soprattutto con che frequenza settimanale può essere proposto? Allora, la risposta è sì, in assoluto, con due indicazioni che di precisazione. Cioè, che il panino, come ad un certo punto poco fa, parlando di buon senso da applicare sicuramente in queste situazioni, Nicoletta ha detto, il panino deve essere inserito nella strutturazione della giornata. È bellissimo che i genitori abbiano scritto dicendo come devo strutturare la giornata, perché un panino ben fatto, adesso andiamo a dire come deve essere fatto, può sicuramente essere un pranzo sostitutivo se ad esempio la prima colazione è stata una prima colazione come va fatta, cioè una prima colazione ricca, che abbia una buona quantità di proteine, di carboidrati, di fibra, di frutta e di verdura. Se la colazione è stata una cosa risibile, e quindi una prima colazione a base di due dolcetti o addirittura saltata, ecco che il pranzo non può essere sostituito da un panino. Quindi paradossalmente potrebbe essere che il panino possa diventare addirittura uno stimolo ad un'educazione, ad una, come dire, a riuscire a dare alle famiglie delle indicazioni corrette. E poi vediamo il panino come deve essere. Perché, certo, iniziamo dal panino e poi torniamo indietro, perché lei ha pronunciato parola colazione e già leggo due messaggi, e poi le chiederemo anche di darci qualche esempio per una colazione che piace ai nostri bambini. Molti bambini al mattino sono inappetenti, l'imitazione, l'esempio dei genitori conta, ma noi sappiamo, i dati ce lo dicono, il dottor Speciani ne ha fatto quasi una battaglia, che come chi ben comincia a metà dell'opera, la colazione è veramente il pasto più importante della giornata, non solo per gli adulti che vogliono magari tenere sotto controllo il peso, ma soprattutto per i bambini. Dottor Speciani. Mi fa piacere questa cosa, e soprattutto posso dire che per fortuna non è una battaglia personale, perché è sostanziata da ricerche scientifiche, da valutazioni concrete. Ce n'è una recentissima fatta in Gran Bretagna, in Galles, sul fatto che i bambini che fanno una prima colazione vera, come stavamo dicendo poco fa, in realtà hanno nei vari assessment, cioè nei test, negli esami che fanno di valutazione, dei voti decisamente più elevati e migliori di quelli dei bambini che la prima colazione non la fanno. Quindi questo è un dato che si lega al tema scolastico, per cui aiuta anche il profitto scolastico la colazione. Sarebbe una bella occasione da discutere a cuore denari, perché è un tema interessante che tocca sia l'aspetto della salute sia l'aspetto dell'efficienza delle nostre spese. Parliamo di come può essere un panino da questo punto di vista. Intanto, siccome spesso noi siamo abituati a sentirci dire mangiare panini fa male, butto lì una minima comunicazione per capire una differenza. Se io faccio un pane, prendo lo stesso pane, poi parliamo del pane integrale, prendo lo stesso pane e ci metto dentro prosciutto e formaggio a caso, tipo un classico formaggio stagionato, in realtà mi trovo che un panino contiene 2,54 grammi di sale, cioè è il limite massimo che dovremmo mangiare in una giornata da adulti, e da bambini ancora meno. Se solo siamo un po' accorti e lo stesso panino lo facciamo, anziché con del prosciutto, lo facciamo con del tacchino, dell'arrosto di tacchino e del cottage cheese, ecco che ci troviamo ad avere solo 0,89 grammi. Quindi, di sale. Quindi tacchino e formaggio, mi scusi per tradurre. Il quark, il cottage cheese, il formaggio fresco, come dire. Ecco che abbiamo una giusta quantità di proteine apportate e però un terzo del sale utilizzando altri tipi di sostanze. Quindi già la scelta del come farlo questo panino è importante. Sappiamo che l'indicazione è di avere del pane integrale, perché il pane integrale già apporta delle proteine naturali, apporta in buona quantità, un pane buono integrale anche il 14% di proteine, una bistecca ce n'ha il 19%, quindi siamo già molto vicini. Pane bianco ce l'ha 6,5-7%, cioè perdiamo una forte possibilità di aiuto. Ci mettiamo dentro una verdura buona o due foglie di insalata, il pomodoro di cui parlavamo stamattina. L'insalata è dura, farla mangiare ai bambini. Ah, ma due foglie ben messe tra un non, po' di tacchino. Le nascondiamo. Le nascondiamo bene, eh? Sì, sì, sì. Le mamme hanno dei trucchi fantastici per far mangiare delle cose che a volte non compaiono immediatamente, però la presenza di un po' di frutta o di verdura, una sottile fetta di ananas creando l'esotico, cioè qualcosa di questo tipo, insieme a delle proteine, ecco che noi abbiamo un pane integrale, delle proteine sane e non troppo salate e non troppo conservate, un minimo di aggiunta di verdure, due olive, un po' d'olio, cioè qualcosa che richiami un gusto anche ricco. Io so che quando facevamo questi panini ai nostri bambini per andare a scuola, in realtà erano richiesti da tutti i compagni, cioè il gusto piacevole di questa cosa era estremamente richiesto. Però adesso stiamo parlando di effetti sulla salute. Un panino composto con questo tipo di criterio, con dei pani poco salati e integrali, è un cibo che può, di fronte ad una prima colazione fatta bene, anche giustificare un'assunzione calorica sufficiente. Tocca la frutta, la verdura, la fibra, le proteine, i carboidrati in modo adeguato e corretto. Quindi sono assolutamente dell'idea che possa essere utilizzato in modo valido. È chiaro che se il panino è un paninetto misero, fatto solo di carboidrati, non è sufficiente per gestire una situazione. Preferire il pane integrale, che dimensioni deve avere il panino? Lei ha detto un paninetto, quindi facciamo una misura a palmo per un bambino. Sì, ci sta, un palmo, il palmo della palmo mano di un adulto, un non integrale, di un certo, quindi con due fette da una parte e dall'altra. E la stessa cosa deve essere la stessa misura, può essere una fetta di una proteina, un pezzo di pollo tagliato sottile, del pesce, qualcosa che abbia quindi questo tipo di presenza, perché se noi mangiamo un panino che è fatto solo di carboidrati, purtroppo ci troviamo in una condizione in cui dopo un'ora, un'ora e mezza il bambino va in una sorta di ipoglicemia reattiva e non rende a scuola. Invece, se abbiamo un bilanciamento corretto, ci troviamo con una situazione in cui per 6 ore tecnicamente il bambino può essere in grado, se non è un vizioso e mangia le caramelline che riattivano questo tipo di processo, può mantenere un'efficienza valida e giusta. Dottor Speciani, pane frittata, mi chiede un ascoltatore, buonissima. Che buono. Pane frittata è perfetto. Posso dare un suggerimento? Sì. Una frittata fatta al forno anziché fritta, quindi è una fornata anziché una frittata, il concetto è lo stesso. Io ricordo che amavo quando la mia mamma metteva delle micro scrostine di limone dentro e quindi c'era questo gusto. E sopra io amavo metterci una fettina di pomodoro, quindi il pomodoro, il pane integrale e la frittata. Questo è un panino serio, sensato, che corrisponde, se ci pensiamo, corrisponde ad un primo, un secondo e un terzo, cioè è un piatto ricomposto in cui ci sono sia le proteine, la fibra, la verdura e i carboidrati. Quindi, e voilà! È bello, che bello, eh! Dottor Speciani, ho promesso ai nostri ascoltatori che avremmo dato degli esempi di prima colazione, ma dato che subito dopo le informazioni sul traffico parleremo di fumo e adolescenti, le chiedo se gentilmente possiamo postare alcune delle sue ricette che lei ha raccolto in un magnifico libro e quindi possiamo dare ai genitori all'ascolto delle indicazioni per una buona colazione, magari una colazione stuzzicante da preparare già domani in occasione del weekend. Meraviglia. Magari siete tutti intorno ad un tavolo, una colazione un pochino più ricca, più gustosa per iniziare bene la giornata. Dottor Speciani, la ringrazio, le auguro anche a lei un buon panino. E buona prosecuzione a tutti. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Avete iniziato a fumare da giovani? Da quanto giovani? Da adolescenti? Oppure avete figli che fumano? Restate con noi, a tra poco. Cuore e denari. Allora, i nostri figli, i nostri ragazzi sono i fumatori più giovani dell'Unione Europea. Secondo una recente indagine del Centro Europeo delle Dipendenze, pensate, il 21% dei ragazzi italiani prima dei 13 anni, quindi parliamo di ragazzetti che vanno alle medie, ha già provato a fumare e il 4% fuma regolarmente. Ne parliamo oggi insieme al dottor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano. Buongiorno dottor Arari. Buongiorno. che bisogna dire? Allora, il fumo nuoce gravemente alla salute, a ricordarlo sono le numerose campagne antifumo, però lo sappiamo bene, ai giovani il messaggio non arriva. I ragazzi si sentono, come ci siamo sempre sentiti anche noi, alla loro età, forti e invincibili, e delle conseguenze del fumo non se ne curano. Ma, dottor Arari, cosa vuol dire iniziare a fumare così presto? Prima di tutto il dato peggiore è che negli anni si è spostata progressivamente l'età dei fumatori da una situazione di un po' di tempo fa in cui la maggior parte della popolazione fumatrice era concentrata nelle fasce di età più avanzate ed era un po' un retaggio storico, agli adolescenti, e questo naturalmente produrrà dei problemi di salute nei prossimi anni, quindi c'è un problema che riguarda le prospettive di salute di questi ragazzi, le prospettive di salute e l'impatto che possono avere sul sistema sanitario e sull'equilibrio sociosanitario. L'altra cosa molto importante in termini pratici è che noi abbiamo degli studi importanti che ci hanno detto che la prima sigaretta è la peggiore, ovvero sia tanto prima tu inizi a fumare, tanto prima tu entri in contatto col fumo, tanto maggiori sono le probabilità che tu poi non smetta. Cioè la dipendenza è più forte tanto prima hai cominciato a fumare. L'altra cosa che molto spesso si dimentica è che è vero che conta il numero di sigarette fumate, ma conta anche la durata dell'esposizione. Quindi se tu cominci a fumare prima, chiaramente il numero di anni durante i quali sei esposto al fumo è più importante. Ultima cosa, un ragazzo di 10 anni, 11 anni, 13 anni è ancora nella fase di sviluppo del suo organismo e i danni del fumo mentre gli organi si stanno ancora sviluppando sono molto più importanti di quelli che potrebbero manifestarsi invece nell'età più adulta. Ieri, dottor Arari, abbiamo parlato del Fertility Day e i suoi colleghi che sono intervenuti in trasmissione hanno sottolineato anche che anche il fumo ha impatta sulla fertilità maschile e femminile. Sicuramente, questo è uno degli aspetti. E no, è solo uno dei tanti, ma proprio dato che ieri abbiamo parlato di fertilità, dottor Arari, la letteratura suggerisce che l'esperienza legata al fumo e alle decisioni di smettere di fumare sia molto diversa nei giovani rispetto ai grandi. Ad esempio, gli adolescenti spesso non sono consapevoli della loro dipendenza dalla nicotina, perché non provando a interrompere il consumo non si rendono conto che sono dipendenti. Dottor Arari. Guardi, questo è il problema della gran parte delle dipendenze. Anche chi ha dipendenze da sostanze stupefacenti dice che potrebbe smettere domani. Il problema è che poi smettere l'alcol, il fumo, è molto più difficile di quanto poi non si immagini. Quindi c'è sempre in chi ha una dipendenza la sensazione, la convinzione che questa non sia così forte, che questa non esista e che si possa interrompere in maniera così semplice. Purtroppo è l'onnipotenza che sta dietro al sentimento che guida questi comportamenti e delle volte è un sentimento molto forte dal punto di vista inconscio e molto difficile da sconfiggere. Io devo dire che anche quando, questo racconto alcuni episodi di pratica clinica, cioè io ho avuto pazienti che hanno sviluppato gravi situazioni respiratorie, che sono state trapiantate di polmone per malattie legate al fumo, che hanno ricominciato a fumare dopo il trapianto. Quindi c'è una situazione molto spesso in cui anche quando c'è la coscienza di una malattia non si riesce a smettere di fumare. Tipico è peraltro le difficoltà a far smettere di fumare i pazienti che hanno sviluppato per esempio neoplasie polmonari. Quindi se questa è la situazione di quella che noi chiamiamo la prevenzione secondaria, figurarsi quello che è la situazione della prevenzione primaria, cioè di chi non ha ancora una malattia ma deve smettere perché sa che il fumo causa tutta una serie di problematiche di salute. I genitori di ragazzi che fumano spesso non sanno come affrontarli, se ne provano un po' di tutti, c'è chi prova la restrizione, chi invece la pressione, chi il supporto per smettere. Abbiamo voluto invitare Pietro, che è in linea con noi, 20 anni, un ragazzo di Bologna, di Radio Immaginaria. Pietro, ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno Pietro, torneremo su questo tema perché i minuti scappano, ma vogliamo sentire perché come si fa a farvelo entrare in testa? Come si fa? Allora, domanda da mille punti. Racconto la mia esperienza. Mi sono avvicinato, diciamo, all'ambiente di ragazzini che fumavano, 13-14 anni, chiaramente non per l'interesse del fumare, sì, ma perché il fumo, la sigaretta in mano fa molto, colpisce, no? Certo. Ero rimasto ammaliato io stesso. No? Tu che sei esperto di radio, ti faccio. Scusami Pietro, tu che sei esperto di radio, ti faccio una comunicazione. Abbiamo un minuto, ma poi torniamo sul tema nei prossimi giorni. Allora restringo. Purtroppo io sono rimasto colpito, ho iniziato e mi sono reso conto troppo tardi forse che ne ero attaccato, ho provato a smettere tantissime volte e devo dire che metterlo in testa purtroppo o mi entra in testa con una batosta o mi arriva, non credo che i genitori possano aiutare, non credo proprio. Allora, il genitore, perché molto spesso chiaramente cercare di impedire spinge ancora di più a provare nella fascia di età tra i 14 e 18, secondo me, no? Quindi Pietro ci ha già dato un'indicazione: vietare fa venire ancora più voglia, ma noi ne parleremo, inviteremo naturalmente Pietro e il dottor Arari. Intanto voi genitori attivatevi, scriveteci anche le vostre esperienze positive, proveremo a metterci in contatto con la testa dei nostri ragazzi e vedere se magari possiamo aiutarli a smettere. Grazie al dottor Arari, grazie a Pietro di Radio Immaginaria, vi aspetto lunedì insieme naturalmente a Deborah. A domani, a lunedì.